Dopo migliaia di anni ci si chiede perché dobbiamo ancora leggere la Bibbia. Io non credo che porci simili domande sia sbagliato, perché non è detto che un'abitudine debba sempre essere conservata. Alcuni decenni di anni fa per televisione diedero una notizia strepitosa. L'alcol che si dava sulle ferite da 3 secoli non era più ritenuto efficace. Anzi, era addirittura controproducente. Come il salasso. Era una soluzione secoli fa, ma poi ci si rese conto del suo danno. E, giusto e lecito, dunque, che ogni generazione metta in discussione certe abitudini, si ponga delle domande e abbia delle risposte. Perché quello che fa non sia il risultato di una tradizione inconsapevole, ma una ragionevole e ponderata abitudine. Sono i religiosi fanatici che non mettono mai in discussione le loro usanze, e per questo arrivano anche a compiere spregevoli atti. Ma i cristiani hanno una fede, che è supportata dalla razionalità. Però, anche i cristiani, per non cadere in una risposta soggettivistica e condizionata dalle abitudini, di fronte alla domanda perché dobbiamo ancora leggere la Bibbia, devono trarre le risposte da una fonte esterna. E dove trovare una risposta obiettiva se non nella Bibbia stessa? Per questo considereremo nella parola di Dio le ragioni per cui essa deve essere letta. 1. La parola di Dio va letta perché è un documento eterno, Matteo 24.34. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Pochi hanno dato valore a queste parole di Gesù. Che in questo mondo nulla sia eterno è un fatto risaputo. Eppure Gesù, come a volerlo enfatizzare, ha detto che un giorno tutto ciò che è creato passerà, mentre le sue parole sono eterne. Di fronte a questa dichiarazione non si può rimanere indifferenti, perché solo un pazzo può parlare così. Oppure, è vero che quando si legge la parola di Dio, stiamo leggendo qualcosa di eterno, e poiché le parole di Gesù non sono mai state dimenticate, né sono sorpassate, non è questa una delle prime ragioni per le quali si deve leggere la parola di Dio? Vi sono persone che ritengono tempo inutile leggere la parola di Dio, ma sono le loro opinioni a essere inutili, perché dopo la loro morte la parola di Dio continuerà ancora a essere letta e predicata, malgrado la loro opinione. Un famoso ateo, fortemente contrario alla parola di Dio, prima della sua morte, che la lettura della Bibbia sarebbe stata inutile, ma dopo la sua morte, la sua casa venne adibita a libreria cristiana. Perché queste cose non fanno riflettere gli increduli? Nessun libro della storia è stato così odiato, screditato e combattuto come la Bibbia. Nel IV secolo, gli imperatori romani Diocleziano e Giuliano ordinarono ai propri soldati di distruggere qualunque copia ne trovassero. Nel 1382, la stesura della prima traduzione in lingua inglese incontrò una feroce opposizione e ne fu proibita per legge la lettura. Quando le prime copie dell'opera di Tendale furono introdotte di contrabbando in Inghilterra, ne venne ordinata la distruzione in quanto merce pericolosa. Nazione dopo nazione, la Bibbia è stata bruciata e bandita un po', ovunque, e i suoi traduttori sono stati perseguitati, torturati e messi a morte. In tempi recenti alcuni regimi totalitari hanno ordinato attacchi di massa contro la Bibbia, distruggendone milioni di copie. Anche nella cosiddetta tollerante era moderna, la Bibbia rimane il bersaglio dell'odio e del sopruso. In alcuni paesi è un'offesa criminale venderla o distribuirla. Scendete dall'aereo con una Bibbia sotto braccio in uno di questi paesi e finirete in prigione prima ancora di arrivare alla dogana. Perché? Cosa ha di così pericoloso e di avverso la Bibbia? Invita a compiere cose aberranti? No, perché insegna a comportarsi bene verso tutti gli uomini. E è forse un libro che ordina ai credenti di rovesciare le istituzioni pubbliche? No, perché insegna ad essere sottomessi alle autorità? Forse la Bibbia è a favore del terrorismo? Assolutamente no, perché ordina di amare i propri nemici. Cos? E allora fare della Bibbia un libro così contrario alle nazioni religiose e non, e la verità, la causa di tutto,

l'arroganza, l'avaria, l'egoismo e l'oscenità. Tratta questioni come la violenza, l'omicidio, la guerra e i disastri naturali. Queste sono cose irrilevanti. Stabilisce con chiarezza principi legati alle questioni morali ed etiche d'oggi, come l'aborto, l'eutanasia, l'omosessualità, la clonazione dell'uomo ed altre forme di ingegneria genetica. Non si tratta forse di questioni contemporanee? La Bibbia fornisce un ampio insegnamento per una vita familiare stabile, sul giusto modo di vivere il sesso, sulle responsabilità dei dipendenti, sulla giustizia sociale, sull'integrità negli affari e sulla gestione delle finanze personali. Mostra come gestire la povertà, la malattia, il rifiuto, il lutto ed altri traumi personali. Per tacitarla in maniera diretta indica la via all'amore, alla gioia, alla pace, alla pazienza, alla gentilezza, alla bontà, alla fedeltà, alla benevolenza e all'autocontrollo. Queste cose non hanno alcuna importanza per noi, parla in modo diretto della protezione degli animali e della cura dell'ambiente. Parla con determinazione dei doveri e dei divieti, sottolineando il nostro dovere di aiutare i malati, i disabili, gli afflitti, i poveri, i senza tetto e gli spodestati, e fa riferimento più volte agli orfani e alle vedove. Queste sono cose trascurabili. Qualcuno ha fatto notare come l'Antico Testamento contenga tanta guida per la nostra vita. Parla delle perdite della proprietà, dei rapporti con i vicini, del giusto modo di abbigliarsi, dell'ecologia, della santità e dell'igiene, dell'agricoltura e dell'orticoltura, delle relazioni matrimoniali, dell'adulterio e dello stupro. Non solo questi temi attuali. Altri critici condannano la Bibbia per i suoi divieti, ma l'ordine di non uccidere preserva la vita umana. L'ordine di non commettere l'adulterio preserva la santità del matrimonio. L'ordine di non rubare salvaguardia la proprietà privata. La libertà totale non esiste in nessun campo, e la Bibbia è la vera guida per il singolo e la società. Non è forse una ragione più che valida per leggere la parola di Dio? 3. La parola di Dio deve essere letta perché si possa porre fede in Gesù quale figlio di Dio? Giovanni 20 e 31. Queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Sono passati ormai 2000 anni dalla nascita di Cristo. Come possiamo verificare che ciò che leggiamo nella Bibbia sia vero? Oggi disponiamo ben oltre 5000 manoscritti del Nuovo Testamento in greco originale ed un totale di 20000 altre fonti che ci aiutano a mettere insieme il tutto. Qualsiasi opera antica non regge al confronto. Dobbiamo ricordare che ci è pervenuta una larga collezione di evangeli apocrifi del secondo, terzo e quarto secolo. Per esempio il Protovangelo o Vangelo di Giacomo, probabilmente della fine del secondo secolo, l'Evangelo di Toma del terzo secolo, il Vangelo di Nicodemo del quarto secolo, il Vangelo di Pietro del secondo secolo e l'Evangelo arabo dell'infanzia. In queste strane opere apprendiamo che Salomè vide la sua mano seccarsi perché non volle credere alla nascita miracolosa. Nella stalla l'asino e il bue si inginocchiarono davanti al bambino. Leoni e leopardi lo adoravano sulla via d'Egitto. Delle rose fiorirono al suo passaggio. Tutti gli idoli di Egitto caddero dal loro piedistallo quando egli entrò nel paese. Nel suo villaggio a Nazareth uccise con un sol colpo un ragazzo che gli aveva dato uno spintone per strada. Trasformò 12 statuette d'argilla in uccelli viventi, criticò uno dei suoi maestri di scuola, ne fece molto. Ma il tutto è stato accuratamente esaminato e selezionato al punto che si può dire che nessuna opera letteraria o religiosa può reggere il confronto con le credenziali della Bibbia in questo campo. Proprio per questo è razionale e possibile credere ai testi evangelici e porre fede che il Gesù presentato nella Bibbia sia verace e non un'invenzione umana. Gli autori biblici non hanno scritto per venire incontro ai curiosi, per chi non aveva nulla da fare, ma dopo esserci accuratamente informati, hanno scritto perché tutto il mondo sapesse che Gesù, il figlio di una giovane donna chiamata Maria, è il figlio di Dio che ha assunto un corpo per parlare agli uomini e per avvicinare l'uomo al Dio trino. Purtroppo certe organizzazioni negano che Gesù sia Dio stesso, ravvisando nel termine figlio di Dio una inferiorità rispetto al Padre. ma questa è questione di mancanza di istruzione. 4. La parola di Dio deve essere letta perché parla del futuro. 2 Pietro 1.2021. Nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduta alla volontà dell'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. La brama dell'essere umano di conoscere il futuro è insaziabile. Molti leggono l'oroscopo pubblicitario in innumerevoli riviste e giornali, mentre altri cercano indizi in sfere di cristallo, foglie di tè o carte dei tarocchi. Eppure possiamo dire con sicurezza che chiunque agisce in questo modo difficilmente non si rende conto di due cose importanti riguardo alla Bibbia. Primo, che circa il 30% di essa è costituita da profezie. Secondo, che neanche una sola profezia fatta secondo i criteri di Dio si è mai rivelata falsa. Questo non dovrebbe attirare la nostra attenzione? Non dovrebbe essere una ragione più che valida per leggere la parola di Dio? Il fisico francese del XVI secolo, Nostradamo, scrisse 942 poesie di 4 versi che, a quanto si dice, prevedevano degli eventi futuri. Le sue poesie sono redatte in termini così vaghi da poter essere applicate a qualsiasi cosa, da un crollo di borsa al verificarsi di terremoti. Tuttavia, moltissime persone consultano ancora la sua opera per avere indizi sul futuro. Questa non è malafede quando si ha alla portata di mano un libro che non ha mai sbagliato nessuna profezia. La genuina profezia biblica non scende mai in banalità prive di senso trattate dai maniaci di oggi, dai ciarlatani e dagli artisti, finalizzate principalmente a procurare il senso del benessere delle persone a qualsiasi costo. La parola di Dio parla di molte cose, ma si occupa principalmente della situazione spirituale dell'uomo, perché alla fine la cosa più importante è il destino eterno di ognuno. E poiché non è possibile sapere se ciò che è detto del destino eterno dell'uomo sia vero, Dio si è procurato di adempiere le sue promesse. Ora, per avvertirci che se ciò che ha detto è risultato vero, sarà anche vero, sarà anche vero. Ciò che ha promesso nell'aldilà. Così, la Bibbia deve essere letta perché possa infondere in noi la fede nella dannazione e nella beatitudine eterna. Ricevuta questa fede, la lettura quotidiana della Bibbia ci rende idonei di comprendere le promesse o profezie giornaliere. 5. La parola di Dio deve essere letta perché rivela lo stato spirituale dell'uomo. 1 Giovanni 5:13. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. Quando uno scrive una lettera, le ragioni possono essere tante, ma l'apostolo ed evangelista Giovanni nei suoi scritti spiega che le sue motivazioni erano soprattutto quelle di suscitare la fede in Cristo, affinché chi avesse posto fede in Lui sapesse di avere la vita eterna. Dopo 2000 anni, questo messaggio non suscita nessun scalpore, ma per dei religiosi come gli ebrei avere delle certezze in merito al destino eterno era una novità assoluta. Per comprendere questo aspetto è sufficiente considerare le religioni, ma soprattutto il cattolicesimo romano nella sua espressione religiosa, dato che è una realtà nella quale viviamo. Il cattolicesimo romano, come qualsiasi religione, non offre nessuna certezza per il destino eterno, e se anche pretende di far diventare figli di Dio le persone con il battesimo, queste possono andare nella perdizione eterna se muoiono con un peccato mortale. Così, mentre la religione rende schiavo l'uomo con i suoi riti senza dare nessuna garanzia, la lettura della parola di Dio suscita nel credente delle certezze che non appartengono alla ragione umana. Chi pone fede in Cristo ha una speranza senza fine, mentre senza Cristo Gesù si ha una fine senza speranza. Questo è il messaggio del Vangelo, un messaggio che scaturisce dalla parola di Dio, e chi la legge ne prende coscienza. Molto probabilmente questa è la ragione per cui pochi sanno che stanno andando in perdizione. In genere le persone si affidano alla loro religione e così i cattolici demandano i loro problemi spirituali al sacerdote o al papa. Non si preoccupano di verificare con la parola di Dio se le istruzioni che ricevono sono giuste e così incoscienti vanno in perdizione. Non conoscere la gravità del peccato non è solo stupido, ma fatale, in quanto preclude ogni speranza di essere salvati. Così non solo è utile ma indispensabile leggere la Bibbia, perché l'ignoranza in merito alla propria condizione spirituale non fa evitare la condanna di Dio. La Bibbia deve essere letta da tutti, dall'incredulo per sapere che la sua incredulità lo condanna, dal credente perché sappia come deve piacere a Dio. Nessuno, e proprio nessuno, nasce con la mente di Dio come nessuno nasce con la conoscenza, perciò è inevitabile la necessità di leggere la parola di Dio. Non vi sono alternative. 6. La parola di Dio deve essere letta, perché aiuta a combattere per la fede. Giuda 1.34. Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini, che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano la grazia del nostro Dio in dissolutezza, e negano l'unico padrone e Signore nostro Gesù Cristo. Poiché la parola di Dio è la verità, è evidente che ottenga una larga opposizione. Mai nessuno come i cristiani è stato, e tuttora così perseguitato, e questo solo perché predicano una fede radicale. Il messaggio che essi recano, e cioè che gli uomini siano tutti perduti e vengano salvati solo gratuitamente dalla grazia di Dio, espressa in Cristo Gesù, non solo viene rifiutato, ma alcuni lo stravolgono e fanno della grazia di Dio un motivo per adempiere ogni loro desiderio malvagio. I veri discepoli di Cristo, i cristiani appunto, devono tenere alta la parola della vita, devono combattere coraggiosamente per la loro fede, e questo è possibile solo se ogni giorno si nutrono della parola di Dio. Nessun credente può resistere agli attacchi dei religiosi e degli increduli se la parola di Dio non forma i suoi pensieri, se non condiziona il suo modo di parlare e di vivere. Il credente deve leggerla per diventare savio, deve credere ciò che legge per ricevere le certezze di Dio. Deve metterla in pratica per essere felice. Per chi ha posto fede in Cristo, la parola di Dio è come una carta geografica per un viaggiatore, cioè indica la giusta strada da percorrere. È come un bastone per il pellegrino, cioè un punto di appoggio. È come una bussola per il navigante, il quale, per fede, segue una meta che ancora non vede. Infine, per chi ha posto fede in Cristo Gesù quale suo Salvatore e Signore, la parola di Dio è una spada per combattere le eresie e le distorsioni del messaggio del Vangelo. Gesù Cristo è il centro dei suoi discorsi. Per il credente egli rappresenta la pietra di inciampo o la pietra angolare sulla quale poggia la sua fede. Il vero cristiano non combatte per delle opinioni in merito alla legge di Dio, ma si schiera a favore di una persona, di Gesù Cristo. Ecco perché la parola di Dio va letta. Nessuno può parlare di Gesù Cristo a costo della sua vita se le parole di Cristo non hanno un totale controllo sulla sua persona. 7. La parola di Dio deve essere letta per sapere come comportarsi nella Chiesa. 1 Timoteo 3,14. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché, se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Quando una persona diventa figlio di Dio in età adulta mediante un atto di fede nell'opera sufficiente di Cristo è inserita nella grande famiglia di Dio sparsa sulla faccia del mondo. La fede cristiana non si può esprimere isolatamente perché altrimenti non è la vera fede salvifica. Ma vivere in comunità non è facile perché ognuno ha le sue regole, perciò Dio ha provveduto di stabilire un codice per una buona convivenza fraterna, e questo codice è la parola di Dio. In essa troviamo che la regola principale è l'amore, cioè quegli atti che producono un benessere nel prossimo. Nella casa di Dio chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere al coniuge. 1 Corinzi 7.3334. I dipendenti ubbidiscono in ogni cosa i loro datori di lavoro, non servendo solo quando sono visti, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio, e qualunque cosa fanno lo fanno di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Colossesi 3.2223. Nella casa di Dio chi vuole diventare grande è un servo di tutti. Chi vuole essere primo è uno schiavo. Matteo 20.2627. Queste sono alcune regole per una buona comunione fraterna. Regole che possono essere accettate solo se si legge regolarmente la parola di Dio. Dobbiamo onestamente ammettere che è molto duro assimilare la verità, e spesso occorre molto tempo perché questa possa cambiare il nostro comportamento. Non è sufficiente conoscere una verità. Essa diventa concretamente tale nella nostra vita soltanto nel momento in cui la mettiamo in pratica. Tutti conoscono la legge dell'amore, ma questo diventa una realtà quando sopportiamo il nostro prossimo, quando benediciamo chi ci maledice e ci perseguita, quando ingiuriati non ingiuriamo, quando sappiamo perdonare in cose che ci hanno profondamente leso. Una cosa è sapere com' è l'amore, un'altra è metterlo in pratica. Tuttavia, se non sappiamo com' è l'amore, non possiamo neppure metterlo in pratica. Così questo è un motivo per leggere costantemente la parola di Dio. 8. La parola di Dio deve essere letta per il nostro bene. Apocalisse 1.3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Le ragioni per cui dobbiamo leggere la parola di Dio sono molte, ma almeno una dovrebbe indurre anche i più recidivi a leggerla, e cioè per la propria felicità. La parola di Dio dichiara beato colui che legge le sante scritture, e questo per vari motivi. Innanzitutto perché gli è dato di conoscere i pensieri di Dio. Forse non abbiamo fatto molta attenzione a questo grande dono, ma il fatto che l'uomo abbia accesso ai pensieri del Dio trascendente non è da sottovalutare. Anche l'Islam ha un suo Dio, ma è un Dio lontano, trascendente, inaccessibile, al quale nessuno si può avvicinare. Nonostante il Dio delle Scritture si definisca l'Alto, l'Eccelso, il quale abita l'eternità, e il cui nome è Santo, eppure egli è anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Isaia 57.15. Pochi adorano il Dio delle Scritture per questo grandissimo dono. Dono che ci è stato dato pienamente tramite Cristo Gesù. A dire il vero, per chi ha compreso questo meraviglioso dono, anche se non ci fosse nessun'altra ragione per leggere la parola di Dio, il fatto che essa riveli il carattere del Dio Trino è una ragione sufficiente per dedicare ore e ore a meditare sulle sante scritture. Quando penso a questo, il mio cuore non contiene questa grazia e sembra scoppiare. Io, creatura malvagia, limitata, indegna, ho accesso ai pensieri del Dio Santo ed Eterno. Posso conoscere il suo carattere, le sue virtù. Che dono mi è stato dato! Che disgrazia disprezzare la parola di Dio! Ora non mi chiedo più perché devo leggere la parola di Dio, ma mi chiedo come sia possibile non leggerla, come sia possibile trascurarla. Davanti a Dio, come sempre, le nostre problematiche vengono capovolte. Ogni interrogativo muore sulle nostre labbra. Chi ha compreso anche in minima parte il dono di Dio espresso in Cristo e nella sua parola, non può vivere senza cibarsi ogni giorno delle sue parole. Questa è la mia testimonianza e di tutti coloro che amano Cristo Gesù. Vuoi tu far parte di questa schiera? Decidi dentro di te di leggere e meditare ogni giorno la parola di Dio e non potrai più farne a meno. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Cristo non passerà mai. Ottobre 2005, Ellero.